Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera vi presento un saggio storico che si legge e in certi punti commuove come un romanzo, quello di Mirella Serri, che si intitola Bambini in fuga, i giovanissimi ebrei braccati da nazisti e fondamentalisti islamici e gli eroi italiani che li salvarono. È pubblicato da Longanesi, 256 pagine, 17,60 €. Quella che Serri racconta è una storia vera, molto ben documentata, relativamente poco nota, che ha appunto il merito di rievocare un episodio importante delle follie anti-ebraiche che anche il nostro paese dovette sperimentare durante il fascismo, e ha il merito di farci conoscere meglio un personaggio decisamente sinistro nella sua convinta adesione alle aberranti politiche hitleriane, un personaggio che non era un gerarca nazista ma un'altissima autorità religiosa musulmana, ossia il Gran Mufti di Gerusalemme, Amin al-Hushani. L'episodio raccontato è quello di un gruppo di bambini e ragazzi ebrei che, attraversando l'Europa, erano passati in Jugoslavia, di là speravano di trovare la salvezza in Italia, presso l'abbazia di Nonantola. In effetti arrivano a Nonantola, vicino Modena, e ci arrivano grazie anche alla delegazione per l'assistenza agli emigranti ebrei, che aveva appunto cercato, e in molti casi era riuscita, a favorire l'emigrazione degli ebrei in pericolo. E tra questi appunto c'erano i 43 giovani ebrei che erano destinati a Nonantola, alla villa Emma nel Modenese. Questa decisione di mettere in salvo questi ragazzi confermava i sospetti del Reich nei confronti di molti esponenti italiani, che erano sospettati appunto di una sorta di complicità e di tolleranza nei confronti degli ebrei, un comportamento questo nel quale si era distinto un diplomatico che lavorava con Ciano, il conte Lucio Pietro Marchi, che è anche lui un protagonista di questa vicenda, di cui adesso parliamo con l'autrice. Buonasera Mirella Serri. Buonasera. Mirella Serri, nella presentazione del suo libro ha lasciato i ragazzi in fuga, i ragazzi ebrei a Nonantola. Come andarono poi a finire le vicende di questi ragazzi da Nonantola? Furono, mi pare, ben accolti, da quanto ho letto nel suo libro, ben voluti. Ci furono molti sforzi per aiutarli anche da parte di molti preti cattolici, però poi qualcosa non andò per il suo verso. Qualcosa non andò per il suo verso, nel senso che poi Nonantola, dopo l'8 settembre del 1943, venne occupata dai nazisti, e quindi, come dire, l'aria era completamente cambiata per i ragazzi, che erano così, grazie proprio alla generosità di tutto un paese, erano riusciti a salvare la vita. Diciamo subito come va a finire, perché la storia finisce bene, nel senso che i ragazzi si salvano quasi tutti, cioè quasi, nel senso che uno solo, ammalato di tubercolosi, rimane in Italia e poi purtroppo viene deportato ad Auschwitz. I ragazzi si salvano grazie alla generosità dell'intero paese di Nonantola e riescono anche appunto a fuggire da Nonantola e a dirigersi in Svizzera. Anche qui abbiamo un altro, diciamo, generosissimo personaggio a cui è dedicato il mio libro, Goffredo Pacifici, appunto un ebreo che abitava anche lui tra Modena e Nonantola, che riesce a far passare loro il confine e si sacrifica perché poi le SS lo arresteranno. Un posto centrale nel suo libro ce l'ha il Gran Mufti di Gerusalemme, Amin al-Hushani, una figura di cui forse non è stata ancora messa a fuoco interamente il ruolo nefasto che svolse, soprattutto la vicinanza convinta a Mussolini e a Hitler. Lei a un certo punto nel libro addirittura lo definisce l'orco. Sì. Come mai? Lo definisco l'orco perché appunto il libro si svolge, diciamo, su due percorsi: uno è questo dei bambini in fuga e l'altro è quello degli inseguitori, e tra gli inseguitori c'è appunto Amin, il Gran Mufti di Gerusalemme, di cui lei ha detto giustamente non è mai stato messo in luce il suo ruolo effettivo, perché Amin, con la scusa, chiamiamola così, con il pretesto essendo lui molto ostile naturalmente agli inglesi e ai britannici, che era la potenza, la Gran Bretagna era la potenza mandataria della Palestina, ha sempre sostenuto di essere stato alleato di Hitler e del nazismo, in quanto si trattava di una nazione non imperialista, la Germania, e comunque nemica dei suoi nemici. In realtà non è così, perché il Gran Mufti di Gerusalemme ebbe un ruolo ecco, questo appunto è uno dei punti nuovi, direi, del libro, ebbe un ruolo molto, ma molto determinante a fianco di Hitler e di Eichmann e di Himmler nel limitare l'emigrazione ebraica dalla Germania e comunque in generale dall'Europa. E io lo chiamo l'orco perché non si limitò a limitare l'emigrazione appunto ebraica degli adulti, ma anche e soprattutto dei bambini. Perché dei bambini? I bambini esponenti appunto dell'odiata razza, i bambini ebrei, sarebbero stati, diceva lui, i suoi nemici di domani, perché lui sperava che la Germania di Hitler avrebbe poi occupato la Palestina e quindi fece di tutto per impedirne la fuga e per, devo dirlo, per indirizzarli nei campi, nelle camere a gas. E in questa politica anti-britannica a un certo punto lei scrive riuscì a mettere in scacco, a tenere in scacco anche Churchill. Sì, sì, lui riuscì spesso a tenere in scacco Churchill perché riesce in alcune circostanze, riesce a, per esempio, a fuggire dall'Iraq, mentre invece, come dire, Churchill aveva dispiegato tante forze, la sua intelligence, i militari e così via, per impedirgli la fuga. E in un primo momento era stato anche suggerito a Churchill di uccidere il Gran Mufti di Gerusalemme quando si trovava in Iraq, però Churchill, il governo inglese aveva rifiutato passare a questa operazione di intelligence. Lui riesce a mettere in scacco Churchill anche perché era un politico abilissimo. Hitler lo chiama la vecchia volpe, e non perché fosse vecchio, ma perché era molto, ma molto astuto e bravissimo, devo dire, ed era anche coraggioso. Per esempio assistiamo a tantissime, almeno 4-5 sue perigliosissime fughe con vari travestimenti. A un certo punto la sua politica, la sua posizione si incrocia con le politiche filo-musulmane di Mussolini e addirittura lei ricorda che il Mufti volle creare una divisione islamica che avrebbe dovuto essere istruita alle armi dai nazisti e dai fascisti, però fu uno smacco questo suo disegno. Mi fa piacere che lei dica che fu uno smacco, perché è un punto molto importante anche questo che non è mai stato sottolineato. Lui appunto, il Gran Mufti che si trova a fianco di Hitler e appunto quando è fuggito dalla Palestina, a Berlino ha tanti mezzi a disposizione, per esempio a Radio Berlino, che aveva una potenza molto forte ed era in grado con i suoi appelli di mobilitare il mondo arabo e il mondo islamico, e poi gli viene concesso di organizzare una divisione di SS tutta formata da soldati di religione islamica, e il suo appello, che però provenivano in questo caso appunto dai Balcani, e l'appello del Gran Mufti va agli imam dei Balcani proprio perché di moschea in moschea si organizzino le forze giovanili per la guerra santa in nome di Hitler e soprattutto in nome del Gran Mufti. Quello che mi piace appunto ricordare è che mentre il Gran Mufti rappresenta la linea fondamentalista, estremista e radicale dell'Islam, quando fa questo appello i giovani dei Balcani, e voglio ricordare che prometteva anche molti soldi a chi si arruolava, non accorrono sotto le sue insegne, e secondo me sono una importante testimonianza di un Islam moderato che non voleva la guerra e che non voleva fare la guerra santa sotto le insegne di Hitler. Ricordo anche che anche quando si trovava in Palestina il Gran Mufti fece uccidere molti suoi nemici di religione islamica che erano appunto moderati e volevano il compromesso con gli inglesi. Qual è stato il lascito di al-Jusani? Lei ricorda per esempio il forte rapporto che ebbe dopo la Seconda Guerra Mondiale naturalmente con Arafat. sì, direi appunto che il suo lascito è stato proprio appunto questa linea rossa, dico linea perché fortunatamente è un sentiero molto ben tracciato ma sottile, cioè voglio dire che non riguarda appunto il mondo islamico ma è solo una linea rossa di sangue, anche perché uno dei suoi uomini, anzi in realtà era il figlio di uno dei suoi uomini, Salamè, è il capo per esempio di Settembre Nero che compie l'attentato a Monaco contro gli atleti che si trovavano a Monaco, uccide gli atleti israeliani torturandone per esempio uno e delirandolo. Insomma, ecco, il suo lascito è quello veramente dell'estremismo e del radicalismo. Poi ci sono anche figure generose, per esempio quella dell'ambasciatore Pietro Marchi. Ah sì, ci sono figure direi molto generose in questa storia. A parte volevo ricordare anche Don Arrigo Beccari, che è il primo giusto italiano di Israele insieme a Monreali, che sono le due figure che accolgono i ragazzi insieme a tanti altri a Nonantola. E Pietro Marchi appunto è l'ambasciatore di fede mussoliniana che però progressivamente si rende conto di quello che sta accadendo proprio per la sua posizione in quanto era il capo, diciamo il responsabile dei territori occupati. Lui aveva una moglie ebrea, quindi diciamo era sensibile sia all'argomento della discriminazione, ma aveva anche un osservatorio, era anche molto vicino al Papa, insomma alla Santa Sede, quindi sapeva esattamente quello che facevano i nazisti e quello che stava accadendo in Europa, quindi è molto importante vedere come non solo lui ma anche alcuni militari, generali e così via dell'esercito italiano, venendo a conoscenza esattamente di quello che stava accadendo, prendono le distanze. Per esempio Pietro Marchi riesce ad ottenere diciamo un permesso di transito dei ragazzi che dovevano lasciare l'Italia e approdare in Turchia. Poi questo non avverrà, però Pietro Marchi diciamo si sottrae alle pressioni del Gran Muftì, che da Berlino mandava lettere a tutti ai governi alleati oppure occupati dalla Germania per impedire appunto la fuga dei ragazzi. Se ho tempo e posso fare un esempio, a un certo punto gli alleati propongono a Hitler di fare uno scambio di 10.000 soldati tedeschi che avevano catturato contro 4.000 bambini ebrei che avrebbero dovuto essere rilasciati. Hitler era molto favorevole a questo scambio perché l'arrivo di soldati rilasciati avrebbe rianimato le truppe tedesche, visto che ci si trovava verso la fine della guerra e si vedeva che la guerra era naturalmente non era certo una guerra vittoriosa. Ebbene, ci sono appunto testimonianze dirette che il Muftì andò da Hitler dicendo che bisognava appunto estirpare la razza e che quindi non era giusto che venisse fatto questo scambio, e lo scambio non avvenne. Grazie a Mirella Serri, autrice di Bambini in fuga. Buona serata. Grazie a lei, grazie. Il rapporto tra il fascismo e il mondo islamico è approfondito nel libro di Giancarlo Mazzucca, scritto con Gianmarco Walsh. Mazzucca è un giornalista e anche attualmente consigliere d'amministrazione della RAI. Insieme hanno scritto Mussolini e musulmani, quando l'Islam era amico dell'Italia, pubblicato da Mondadori, 152 pagine, 19 euro. E qui appunto, in questo che il prefatore, che è uno storico, Roberto Balzani, definisce un libro di buon giornalismo storico, qui appunto dicevo viene approfondito questo tema, il rapporto che fu sempre un rapporto molto simpatetico fra Mussolini e il mondo islamico, un rapporto che culminò poi nella famosa fotografia che infatti troviamo nella copertina del libro, di Mussolini che brandisce la spada dell'Islam che gli era stata costruita quando appunto l'Italia conquistò l'impero. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Ci eravamo lasciati nella Roma di Steno del 1944, rimaniamo lì a Roma, ma andiamo indietro di qualche secolo, di molti secoli, per incontrare uno dei grandi autori classici, ossia Apuleio, autore dell'unico romanzo latino che ci è pervenuto integralmente, il satirico infatti è solo parziale, e cioè Le Metamorfosi, meglio note come Asino d'Oro, questo romanzo del secondo secolo d.C., di cui fu autore questa strana figura di mago, filosofo e scrittore, che era nato in Africa, giramondo, processato a un certo punto per stregoneria e poi vissuto serenamente fino alla morte avvenuta a Cartagine. E il romanzo riflette l'avventurosità della vita dell'autore, ne ricostruisce le vicende Franco Pezzini, che è uno studioso dei rapporti tra letteratura, cinema e antropologia, in un libro pubblicato per Odoia che si intitola L'importanza di essere Lucio, Eros, magia e mistero nell'Asino d'Oro di Apuleio, pubblicato da Odoia, 332 pagine, 20 euro. L'Asino d'Oro è definito dall'autore come una storia che si è tentati di collocare tra Fellini e David Lynch, tessuta di ironia e orrore onirico, avventura, raffinato erotismo, fantasie disturbanti. Una storia dal sentore, ha detto Flaubert, di incenso e di orina, dove un labirinto di vicende buffe o paurose, bizzarre e imbarazzanti finisce col condurre a uno strano finale di rinnovamento interiore. Quindi un libro ricco di spunti, spesso contraddittori e ambigui, che l'autore ci invita a cogliere e che spiegano anche il fascino duraturo di cui quest'opera ha goduto nei secoli. E a chi voglia leggerlo segnalo le edizioni più recenti dell'Asino d'Oro, che sono quella di Newton Compton, 4,90€, 152 pagine, quella di Einaudi, 14€, 110 pagine. Un altro grande protagonista della cultura latina fu Seneca, il grande filosofo stoico noto per essere stato molto vicino, anzi ispiratore e amico di Nerone, salvo poi cadere in disgrazia per l'autonomia di cui voleva continuare a dare sfoggio e quindi al punto da essere costretto al suicidio nel 65. Insomma, fu una delle figure forse più famose e anche egli contraddittorie della cultura romana e ne traccia la vita spiegandone l'opera Emily Wilson nel libro Seneca, pubblicato da Mondadori, 310 pagine, 28 euro. Sottotitolo del libro, biografia del grande filosofo della classicità. L'autrice scrive che Seneca era un Socrate cui mancava un Platone pronto a tramandarne la storia. E Tacito si rifiuta di inserire nella sua narrazione, spiega l'autrice, le ultime parole di Seneca perché, dice scaltramente, sono già note, essendo contenute nelle sue opere, quasi a sottintendere che quell'atto finale di autopromozione rischiava di rendere il defunto meno ammirevole del suo modello ateniese. Ma la morte di Socrate fu una consacrazione. Quella invece di Seneca, scrive sempre la Wilson, assume i contorni del fallimento perché, come ci spiega, morire richiese un combattimento, un lungo processo di tentativi ed errori. Del resto, aggiunge l'autrice, Seneca, che era uno studioso profondo dello stoicismo, sapeva che il saggio ideale doveva essere sempre libero, sereno e felice fino alla morte, anche nell'agonia, nella sofferenza più lancinante, nell'umiliazione e nel lutto. Era però anche consapevole della distanza che lo separava dal modello stoico. E quindi emergono le grandi contraddizioni di Seneca, che appunto non soltanto fu consigliere di Nerone, dal quale si distaccò sul finire della sua vita, ma fu anche un uomo ricchissimo, eppure teoricamente distaccato, almeno questo gli imponeva la sua filosofia, dalle cose della terra, come spiegano queste righe del libro della Wilson. Come si conciliano il Seneca super ricco, predives, come lo definisce Marziale, e il Seneca filosofo, lo stoico austero che considera la ricchezza una delle cose indifferenti, anche se preferibili. La ricchezza è un argomento di cui Seneca parla spesso nei suoi scritti, e sempre in modo negativo. Eppure egli ne godette, o perlomeno ne acquisì, tutti gli orpelli. Questa domanda se la ponevano già i suoi contemporanei. La sollevò, per esempio, Publio Suilio Rufo, un delatore animato da un astio personale nei confronti di Seneca. La corruzione finanziaria veniva spesso portata alla luce da informatori di questo genere, che denunciavano personaggi pubblici dediti a pratiche illegali, come i governatori che intascavano i fondi riservati alle province. Una forma di malversazione allora piuttosto frequente. Probabilmente i delatori erano malelingue o anche peggio, ma in un sistema in cui il divario fra ricchi e poveri era così spaventoso e le occasioni di corruzione finanziaria così frequenti, le gole profonde svolgevano un ruolo essenziale per porre un freno agli abusi. E vi segnalo adesso due opere di Seneca, forse tra le più note, quelle più popolari, recentemente pubblicate da Vita Felice: De Tranquillitate Animi, curato da Stefano Costa e annotato con gli scritti di Alberto Grilli, 230 pagine, 12,50 euro, che è un'opera scritta tra il 56 e il 62 d.C., quindi proprio quando Seneca matura la decisione di ritirarsi dalla politica. L'altra opera è La Brevità della Vita, 104 pagine, 7,50 euro, definita dal curatore, che è lo stesso Stefano Costa, come un dialogo riflessione sul tempo sprecato e sulla vita non vissuta, sui mille impegni quotidiani che impediscono agli uomini di sfruttare ogni momento, anzi anche un solo momento dell'esistenza. E quindi un libro, aggiunge, di quasi ossessiva attualità rispetto al carpe diem riproposto tutt'oggi dappertutto. E a questo punto il confettino. A proposito di arte e di bellezza, vi segnalo una serie di Hbook dedicata a grandi artisti. Si comincia con Hokusai, La grande onda, di Véronique Masnot e Bruno Allorger, tradotto da Laura Molinari e Vera Minazzi. Poi abbiamo Mondrian, La casa in costruzione, di Christine Beigel e Christine Destour. Poi Klimt, Il guardiano dell'albero, di Anya Claus. E infine Kandinsky, di Véronique Masnot e Peggy Neal. Ciascuno di questi libri costa 14 euro. E a questo proposito, cioè di Kandinsky, ricordo che è in corso al MUDEC fino al 9 luglio la mostra curata da Silvio Burini e Ada Masuero, dedicata appunto a questo grande pittore, con il catalogo 24 ore cultura, la società organizzatrice della mostra, che appartiene al gruppo al quale appartiene anche questa radio. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Andrea Roccabelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.